Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. L'apertura sulla Grecia, l'Eurogruppo che ha dato il via libera a 10,3 miliardi di aiuti. E oggi è in programma Ecofin. È stata una partita difficile, dice il presidente dell'Eurogruppo. Noi abbiamo chiesto molto alla Grecia, l'FMI ha chiesto molto a noi e anche noi abbiamo chiesto molto a Washington. Un cerchio o il gioco dell'austerità al rialzo, in cui la Grecia, per non prestare più il fianco a critiche e alibi, ha risposto a tutte le richieste, varando negli ultimi giorni misure draconiane. Non a caso Dracone era ateniese. Un passo importante incalza questa mattina da Esselblum, già pronto per l'appuntamento Ecofin, dove in agenda c'è la discussione sull'IVA comunitaria e quella sugli squilibri macroeconomici dei 19, ma dove si parlerà anche di Grecia. 10,3 miliardi sbloccati per far fronte alle spese correnti del paese per ripagare i debiti in scadenza, quasi il doppio di quanto annunciato qualche settimana fa. Sul debito, però, il successo è più nelle parole che nei fatti. Un piano c'è ed è diversificato sul breve, medio e lungo periodo, ma nessun taglio, poco di più di una rimodulazione degli interessi da pagare. Tanto basterà all'FMI per tornare al tavolo del negoziato, per ora almeno. Alla Grecia invece tanti complimenti e una carta da giocare nelle mani di Tsipras. Da ora in avanti però i falchi europei saranno implacabili con l'attuazione delle riforme elleniche e cercheranno di mettere bocca anche sulle privatizzazioni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Limiti pubblicitari, obbligo di promozione dei film europei per le televisioni tradizionali, on demand, ma anche per piattaforme di contenuti audiovisivi da YouTube a Netflix. Libertà di shopping online senza limitazioni di residenza o carte di pagamento e più trasparenza per i corrieri. Il nuovo pacchetto di misure che è stato adottato oggi dalla Commissione europea per avanzare nella creazione di un vero e proprio mercato unico digitale europeo. Amnesty International ha chiesto all'Unione Europea di sospendere i trasferimenti di armi all'Egitto. Intanto si delineano i nuovi scenari nei rapporti tra Europa e Egitto. Armi automatiche, siluri, razzi, missili e le relative munizioni, ancora gas lacrimogeni, apparecchiature elettroniche specializzate per l'addestramento militare, un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro. Tanto vale in un anno l'esportazione da parte dell'Europa di armamenti verso l'Egitto, un commercio che non conosce crisi ma illecito, denuncia Amnesty International, ricordando il divieto imposto dal Consiglio UE a tutti i Paesi membri nell'agosto del 2013, dopo la repressione e il massacro di centinaia di manifestanti. Ma nonostante l'embargo, invece, ben 13 stati su 28 continuano ad essere tra i principali fornitori del paese nordafricano. Tra questi l'Italia, la Germania, la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna. Non solo, secondo l'organizzazione, alcune aziende tedesche, italiane e inglesi avrebbero fornito all'Egitto anche tecnologie e strumentazioni sofisticate per svolgere attività di sorveglianza contro il dissenso politico e per violare il diritto alla riservatezza dei cittadini. Dati confermati dalla 17ª relazione sull'export di armi disponibile da poco sulla Gazzetta Ufficiale Europea, in cui l'Europa figura come uno dei massimi esportatori di armi in Medio Oriente, in paesi che abusano dei diritti umani o coinvolti attivamente in guerra. E ora il timore dell'organizzazione umanitaria è che dopo il ripristino degli aiuti militari all'Egitto da parte degli Stati Uniti nel 2015, anche l'Europa, invece di far rispettare la sospensione, possa rivedere la propria posizione nei confronti del Cairo, liberalizzando l'esportazione di armamenti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 14:05 minuti, 38 secondi, torna Europa 24 questa sera alle 21 all'interno di Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.